Parlament al suono del mio cor. Che squilla e non si ferma tra mostri alieni, catastrofi, robot, nemici e lavoro, a volte anche mia madre come adesso, ma un altro mostro è apparso in cielo. Forza, uniamoci! Dalla base sta chiamando il professor Kay. Se non rispondo si incazza pure, mi ha dato un gol, altro che iPhone. La busta paga non è un granché, ma il mondo chiama e a me basta. Siamo pronti e battaglia, formazione Sigma. Fire, fire, brucia il mio cuore. Il tuono che preavvisa la distruzione del mare, del mare. Fire, fire, mi sento vivo. Thunder, thunder, veloce e potente sarà il colpo finale, finale. Ci hanno colpito all'improvviso, non perdiamoci. Costi quel che costi, andiamo fino in fondo. Qualsiasi massa usi non lo temo e non mi tiro indietro. Quelli come noi in difficoltà danno il triplo. Forza, chiama l'arma finale, formazione Sigma. Fire, fire, brucia il mio cuore. Thunder, thunder, il tuono che preavvisa la distruzione del mare, del mare. Fire, vivo. Thunder, thunder, veloce e potente sarà il colpo finale, finale. È la nostra battaglia totale, un altro colpo e sarà la parola fine a tutti i mali, a tutti quelli che giocano con le vite degli esseri umani, inclusi gli animali. La terra libera, niente più guerre, solo la nostra libertà. Che per chi non l'ha capito non ha un prezzo, non si compra né si vende, si difende e basta. Ma uniamoci! Fire, fire, brucia il mio cuore. Thunder, thunder, il tuono che preavvisa la distruzione del mare, del mare. Fire, fire, mi sento vivo. Thunder, thunder, veloce e potente sarà il colpo finale, finale. Fire. Fuoco che incendia tutto, fuoco che ti brucia dentro. Fuoco come un sentimento, F che sta in fuoco come in forza. Fuoco come noi e sai perché brucia la città, perché è piena di roba. Marcia ed è poca la gente che si salva. Poca come la voglia di ascoltare chi non dice niente quando parla. Ma da ora in poi la risposta la conosci, formazione Sigma. Non sarà mai l'ultima battaglia se chiedi qualcosa. Noi saremo pronti, voi sarete pronti. Anche se saremo pochi ci sentiranno lo stesso. Anche se saranno 20 soldi capiranno lo stesso. Perché i nostri sogni e la nostra volontà non hanno prezzo.